Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a marzo del 1801. La guerra tra Francia e Austria è finita, firmato il Trattato di Lunéville. Congiura di palazzo in Russia, assassinato lo zar Paolo I. Gli Stati Uniti cambiano volto, il nuovo presidente Thomas Jefferson. Non trova una collocazione per ora il Perseo dello scultore Canova. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Dunque, la guerra tra Francia e Austria è terminata con la netta vittoria di Parigi, la firma di un trattato a Lunéville che sancisce di fatto la supremazia di Bonaparte sull'Europa. La battaglia di Marengo e poi la sconfitta degli austriaci sul Reno hanno infine prodotto i loro effetti politici. A Lunéville, in Lotaringia, è stata firmata una pace che potrebbe dare serenità all'Europa almeno per qualche tempo. Alla Francia vincitrice viene riconosciuto il possesso del Belgio, dei territori alla sinistra del Reno e l'annessione del Piemonte. Non solo, Giuseppe Bonaparte, delegato alla trattativa dal primo console Napoleone suo fratello, ha ottenuto che l'Austria dichiarasse legittime le cosiddette repubbliche sorelle e gli stati satelliti, un gruppo folto che comprende, oltre alla Repubblica Elvetica e a quella Batava, anche la Ligure e la Cisalpina, ricostituite pochi mesi fa al nuovo passaggio dell'esercito francese. Di fatto Vienna viene costretta a rispettare i contenuti del Trattato di Campoformio, che per essa prevede il mantenimento del controllo del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È stato assassinato lo zar di Russia Paolo I. Il suo regno, durato 4 anni e mezzo, è terminato quando, su ordine dei conti Peter Ludwig von der Palen e Nikita Petrovich Panin, degli uomini si sono introdotti nella sua stanza in piena notte, tentando di costringerlo a firmare l'atto di abdicazione. Al suo rifiuto è stato passato a fil di spada e poi strangolato. Gli succede il figlio, 23enne, Alessandro I. La battaglia è stata serrata, ma alla fine è stato il democratico repubblicano Thomas Jefferson ad aggiudicarsi la vittoria, diventando il terzo presidente degli Stati Uniti. Nel suo discorso inaugurale Jefferson è tornato velatamente sull'aspra campagna elettorale che ha preceduto il voto, nella quale tra l'altro i suoi avversari sono stati bollati come filo monarchici. Se c'è qualcuno che vuole dissolvere l'Unione o cambiare la sua forma repubblicana, ha detto Jefferson, che sia lasciato indisturbato come monumento alla salvaguardia del principio per il quale gli errori di opinione possono essere tollerati quando la ragione ha la libertà di combatterli. In molti la giudicano un'opera splendida, ma non si sa ancora dove verrà collocata. Il celebre pittore e scultore Antonio Canova ha realizzato una statua di Perseo trionfante che tiene in mano la testa di Medusa, statua che inizialmente doveva essere posta a Milano, al centro della grande piazza ideata da Giovanni Antonio Antolini, che si chiamerà Foro Bonaparte. Ma il progetto faraonico della piazza, che dovrebbe ospitare un museo, la borsa, il municipio, le terme, potrebbe essere abbandonato e sembra dunque che la statua verrà portata a Roma. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, come sempre, oltre a riascoltare la versione audio, potete anche scaricarne una versione da leggere, volendo stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.